Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Le mie caratteristiche anagrafiche fanno sì che io sia una persona nata e cresciuta con il principio dei valori della resistenza. Domani è il 25 aprile, si riparlerà nuovamente di resistenza. Premetto subito, non voglio entrare in merito sui valori della resistenza, su cosa sia la resistenza, il perché, il per come, il per quando, tutti gli aspetti polemici riguardo alla resistenza. Vi dico, io sono cresciuto e nato in una città a forte connotazione comunista, in cui i valori della resistenza erano fortissimi, con una famiglia di estrema destra, in cui i valori della resistenza erano visti dall'altro punto di vista. Quindi immaginate, avevo questa doppia lettura, questa speculare capacità di poter vedere l'uno e l'altro punto di vista. Domani tutti parlerete di resistenza e oggi dovrò parlare di resistenza. Ne devo parlare. Ne parlo molto volentieri perché c'ho qualcosa che mi ha ispirato in questo senso. Dal 25 aprile al 1 maggio a Bolzano ci sarà il Festival delle Resistenze Contemporanee, che viva Dio una volta tanto allarga il concetto di resistenza, che per noi fanciulli ultra cinquantenni è sempre solo unicamente significato una cosa, la resistenza in senso più lato, il senso della resistenza. È un'opportunità per rinsaldare la coesione sociale, riscoprire ciò che ci accomuna. Insomma, a Bolzano per qualche giorno si parlerà di resistenza, prendendo per buono il principio che sia qualcosa di positivo, resistere giusto, resistere bello, resistere etico, resistere sano, resistere eroico, ciò che volete, e si parlerà di resistenza. Radio 24 in questi giorni farà tutta una serie di storie, interviste, approfondimenti, terrà presente come linea rossa i temi di questo festival di Bolzano sulla resistenza. Io questa mattina però mi trovo di fronte a un grosso problema. Mi sono interrogato in tutta la giornata di ieri cosa significa per me la resistenza, togliendo i compiti a scuola, le feste che si facevano, le sfilate dei partigiani per il corso di Perugia e via dicendo. Cos'è la resistenza? Ma la resistenza, faccio proprio una sorta di analisi immediata, spontanea, non mi sono mai posto prima di adesso questo tema in questo senso. Cos'è la resistenza? La resistenza era quella cosa che prendeva mia nonna dal ferro da stiro quando il ferro non funzionava più, lo smontava con il cacciavite, tirava fuori un attrezzino fatto di filo di ferro e carta stagnola, ci bisogna cambiare la resistenza al ferro, e solo mia nonna sapeva cambiare la resistenza. Cambiata la resistenza, le donne potevano riprendere a stirare felicemente. Questa era per me la resistenza, il primo senso di resistenza. Poi è venuta l'accezione tipo sociopolitico. Se oggi mi venisse chiesto: tu sei a favore della resistenza, del resistere? Dico, ma quando mai? Non bisogna assolutamente resistere. Io trovo che ci siano una serie di circostanze irresistibili verso le quali è assolutamente impossibile, anzi è totalmente spiacevole resistere. Non vorrei resistere. Se guardate lo status di Facebook di tutta una serie di signore e signorine, dalle commesse alle importanti top manager, diranno sempre, avranno preso copia e incollato da qualche sito di frasi mielose, la frase di Oscar Wilde, non so se l'hai mai detto, posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni, che detto sotto fra parentesi dovrebbe dire: guardate, ho le mutande in mano, siamo qui, siamo pronti. Quindi questo è un altro senso che depotenzia il senso di resistenza. Alla tentazione non si resiste. Ma andando ancora avanti, avendo praticato in fanciullezza alcune arti marziali, avendole fatte praticare ai miei figli, mi è stato insegnato: guarda, resistere di fronte a un impatto forte è uno sbaglio. Io tutte le volte nella vita che ho provato a resistere contro qualcosa che consideravo ingiusto, consideravo vessatorio, consideravo non adatto e non adeguato al mio senso etico, mi sono sempre schiantato contro il muro, mi hanno sempre fatto un culo che Dio solo sa quanto. Perché? Perché resistere non conviene. Non si resiste, si attacca e si distrugge se si può farlo, ma resistere verso qualcosa che ti attacca è sbagliato. Quindi la resistenza, secondo me, è qualcosa che non è più adeguato ai tempi. Dice, l'alternativa a resistere qual è? È soccombere? Tu vuoi forse soccombere, vuoi forse piegarti, vuoi forse adattarti? Ah, sei un bieco qualunquista, sei un perdente, sei uno sfigato. Ma quando mai? Ma figuriamoci, non ci penso nemmeno. Io soccombere non l'ho mai fatto nella vita, non mi sono mai adattato. Esiste una forma intermedia fra il soccombere e resistere? E ieri, parlando con un caro amico di cui sentite soltanto il respiro ansimante in sottofondo, mi è stato spiegato cosa esattamente è l'alternativa fra il soccombere e fra il resistere. È qualcosa che è molto divertente, molto interessante, non sapevo cosa fosse, l'ho scoperta ieri questa parola, e somiglia molto, e questa mattina l'invito vi farò è proprio a ispirarvi ai valori di questa parola, che somiglia molto a resistenza ma non è resistenza. Vi do ancora qualche attimo di suspense. Una cara amica, con problemi molto simili ai miei di tipo familiare, mi ha detto: guarda, sai cosa significa? Significa rimbalzare. Significa rimbalzare come una palla. Imparare a rimbalzare. Ma ancora di più, la radice latina di questa parola è la frase che racchiude il concetto di sapersi arrampicare su una barca quando si rovescia. Immaginate una barca che si rovescia e voi piano piano risalite su questa barca. E cos'è questa qua? Questa qua è la resilienza. Da oggi vorrei ispirarvi che in realtà i veri valori a cui dobbiamo noi attenerci per vivere modernamente sono quelli della resilienza. Da oggi parleremo di resilienza. Resilienza è un termine derivato dalla scienza dei materiali e indica la proprietà che alcuni materiali hanno di conservare la propria struttura o di riacquistare la forma originaria dopo essere stati sottoposti a schiacciamento o deformazione. In psicologia connota proprio la capacità delle persone di far fronte agli eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà. Voi forse non lo sapevate, non lo immaginate, ma anche voi siete dei prodite e tre e impavidi combattenti che avete fatto la resilienza. Quanta resilienza avete fatto nella vostra vita? Quanto voi siete resilienti? E come vi comportate di fronte all'avversità, di fronte al dubbio? Cosa faccio? Cedo o resisto? Piuttosto mi schianto, mi piego ma non mi spezzo, oppure no, io non ho nessuna possibilità, mi giro, mi tiro giù i pantaloni, fate di me ciò che volete. E no, esiste la terza via, esiste la resilienza. Beppe Neri, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Beppe Neri, neuropsichiatra, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri, mio amico che ieri di fronte al mio dilemma cosa faccio sulla resistenza ha detto facciamo la resilienza. Cos'è la resilienza, Beppe? Beh, la resilienza per noi che ci occupiamo un pochino di come funziona la mente è un tema che è venuto a galla negli ultimi 50 anni, prima negli Stati Uniti e poi in Europa per merito di un collega neuropsichiatra ospedaliero di Tolone che si chiama Boris Cyrulnik, il quale ha valorizzato questo tema usando una metafora che io trovo molto appropriata. Dice: è come l'arte di navigare nei torrenti, come dicevi tu. Quindi, come ha detto l'amica mia, risalire sulla barca quando si rovescia. Esattamente. Sul gommone. Esattamente. Per gli psicologi è soprattutto la capacità dell'uomo di affrontare le avversità della vita, ma di superarle è cosa importante, perché parliamo di un processo dinamico, di uscirne rinforzato e in alcuni casi, nei casi migliori, trasformato positivamente. Quindi descrive un processo complesso, non è soltanto il fatto fisico-meccanico di qualcosa che viene piegato e che poi rimbalza e riprende la forma originale, è la capacità di intraprendere una strada, e questo è stato particolarmente valorizzato in neuropsichiatria infantile per quanto riguarda i bambini, i ragazzi e i traumi dell'infanzia. Quindi, diciamo, è un termine nuovo, moderno, anche molto usurato, perché poi sulla forma fighetta di resilienza sono tonnellate i manuali, applicata a tutto: la resilienza dell'intima d'azione, la resilienza nell'ambiente di lavoro, la resilienza e la cucina, la resilienza i cani da passeggio. Però è molto interessante un principio che ha una sua applicazione fisica. La resilienza è, nello studio di un materiale, è trovare il punto in cui la forza che colpisce questo materiale, la forza d'urto, si può disperdere attraverso il materiale senza arrivare al punto di frattura. Qual è il punto di resilienza gonadica di fronte agli improperi della vita? Sentiamo Carlo. Carlo, buongiorno. Buongiorno, ho capito proprio a proposito, perché io ho fatto della mia vita, della mia filosofia di vita, visto che ho fatto anch'io arti marziali da 30 anni, è la strada per sostenere alcuni problemi durante il giorno. E non sapevo si chiamasse resilienza, ammetto la mia ignoranza, però mi fa piacere che ci sia questo sviluppo. Guarda, credimi Carlo, l'ho scoperto ieri, io sono profondamente ignorante, me l'ha detto l'amico Beppe Neri, però avevo nella testa qualcosa che assomigliasse quando tu sta per arrivarti un colpo con tutta la sua forza e tu lentamente lo aggiri, lo sfiori, senti la forza di quel colpo che dà forza a te e reagisci, era qualcosa del genere. Esatto, io volevo citare appunto una chiamiamola parabola, scusate se uso un termine religioso, perché che è diventata poi la mia filosofia di vita, che è la famosa storiella zen che dice è quella del salice e della quercia, no? Che nevica tantissimo e la quercia resiste e poi gli si spezza dei rami, mentre il salice a un certo punto la scrolla e ritorna esattamente come prima. Ecco, io quando mi sento in difficoltà uso questa cosa che adesso penso sia... Sì, tutti i maestri di karate e di arti marziali la spiegano, la quercia si spezza, il salice si piega e ritorna su, alla sì, faccia di tutti. Esatto, un conto però è sentirla dire, un conto invece è attuarla, ed è un piacere proprio vedere che quando succede questa cosa, quando si riesce ad attuare, veramente ci si sente come rinati da un peso che viene scrollato, perché effettivamente nulla ci si può tenere addosso. Quindi è qualcosa di antichissimo che alcune discipline che applicavano l'arte del combattimento come arte del combattimento verso se stessi avevano già ampiamente studiato, e di fronte all'eroismo, al manicheismo, al fatto di glorificare chi ha resistito. Non voglio entrare nel credetemi, non è una trasmissione assolutamente che vuole inficiare i valori della resistenza, però ho un pochino di saturazione d'essere stato allevato per 50 anni sui valori della resistenza. Dico che la resistenza in sé non è un valore, la resilienza è la capacità di trovare una formula adeguata ai tempi per sopravvivere felicemente, che forse è la vera e profonda missione di ogni essere umano. 800240024. Le persone con un alto livello di resilienza riescono a fronteggiare efficacemente le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere mete importanti. L'esposizione alle avversità sembra rafforzarle piuttosto che indebolirle. Esse tendenzialmente sono ottimiste, flessibili e creative. Sanno lavorare in gruppo e fanno facilmente tesoro delle proprie e delle altrui esperienze. Allora, Beppe, cerchiamo di andare più nel profondo, perché detta così sembra una cosa facile. Cosa vuol dire rimbalzare? Mi fondo su di te perché, conoscitore dei lati non conoscibili del nostro agire, probabilmente possiamo dare qualche esempio. Il resistere è sempre stato considerato un valore con delle valenze fortemente eroiche, etiche. Ah, il resistente, colui che ha resistito. La resistenza è sempre un martire, però, a un eroe. Chi resiste comunque viene portato sugli altari in quanto ha resistito ma è schiattato. Difficilmente, c'è sempre stata una sorta di area di dubbio sulla quale poi si è innestata anche storicamente un'ampia dialettica, anche molto aspra, sul fatto dei sopravvissuti al resistere. Se tu sopravvivi a resistere devi farmi capire esattamente come hai fatto a sopravvivere. E viene subito il dubbio che in realtà di fronte all'eroe che resistendo si è immolato, quello che resistente ha sopravvissuto in realtà è qualcosa che assomiglia molto più a un resiliente rispetto a un resistente. Questo è molto vero, ma nella esperienza storica questo ha esposto molte persone a delle situazioni estremamente sgradevoli, non soltanto qui da noi in Europa per tutto quello che è il periodo della Seconda Guerra Mondiale, ma se tu pensi, una cosa che io conosco per interesse personale, alla storia dei desaparecidos argentini, dei 30.000 che sono scomparsi, quegli 800 che sono riusciti a sopravvivere ai centri di detenzione clandestina dove venivano torturati e poi fatti scomparire i dissidenti, ritornati nella vita normale, erano considerati degli alieni dalla cittadinanza normale e qualcuno che deve avere barattato, deve essere sceso a qualche compromesso, deve avere venduto qualche amico per sopravvivere dagli ex compagni di lotta. È il dramma di tutti i sopravvissuti al lager. Non a caso mi hai detto che il creatore della resilienza aveva qualcosa a che fare comunque. Ecco, è interessante perché per una mera coincidenza Silulnik ha una storia, è un ebreo, ha un nome russo ma è nato a Bordeaux nel 37 ed era un bambino che i genitori ebrei lasciarono in affidamento a un istituto durante la guerra e riuscì con peripezie terribili a sfuggire al treno che partiva da Bordeaux per andare a Mauthausen. Quindi lui ha una sua storia di ragazzino i cui genitori sono morti in un lager e che poi è riuscito a costruire una sua esperienza personale e professionale di sviluppo, e per questo lui ha dedicato molta parte della sua vita proprio a questa fascia di età, ai ragazzi dai neonati fino agli adolescenti che sono stati vittime di traumi fisici, familiari, di varie situazioni, dai bambini nati in condizioni di guerra ai bambini oggetto di violenza, di maltrattamento, eccetera, eccetera. Ecco, ma se la società fosse divisa in termini etici un po' meno manichei, che soltanto chi resiste è un eroe, chi resiste deve morire, e chi sopravvive, che comunque ha resistito, anzi ha resiliato in questo senso qua, è sempre visto con sospetto. E se non ci sarebbe questo dramma profondo e insanabile di tutti i sopravvissuti alle stragi, ai massacri, alle prigionie, ai periodi foschi? Sì, sono sopravvissuto, ho partecipato all'esperienza terrificante, però il fatto che sia sopravvissuto mi fa pensare che forse ho fatto qualcosa di meno rispetto agli altri che sono eroicamente periti. Questo è molto vero, però se tu lo applichi al nostro contesto italiano, la riflessione immediata, anche se non entusiasmante, che ti viene, che noi ricordiamoci che siamo un paese che un bel giorno di settembre del 43 si svegliò dalla mattina alla sera e tutti erano diventati antifascisti per alcuni aspetti. Ecco, per come cui... si fa a capire la resilienza? Secondo me è un valore rispetto alla pusillanimità, all'essere traditori e vigliacchi e via dicendo. Questo è il punto. Sentiamo qualche ascoltatore. Rita, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Gianluca. Niente, io volevo dire... che ho scoperto questa parola, la resilienza, circa un anno fa in un progetto con la scuola, in cui la scuola appunto dava una mano a questi genitori e parlava proprio del senso di fare fatica nell'educare e nel rinforzare i nostri ragazzi. E ci spiegavano appunto che cos'è la resilienza. Come ve l'hanno spiegata? Perché io sto improvvisando questa mattina, considera che da sei ore so cosa sia la resilienza. Niente, praticamente questa psicologa, la professoressa Todaro, una persona veramente in gamba, ci ha portato pian pianino noi genitori a capire quali sono le nostre paure, a riconoscere, a mettere le nostre fatiche. Ma in cosa siete resilienti? Dove rimbalzate? Su quale barca affondata vi state arrampicando nell'educare un ragazzo? Allora, nell'educare un ragazzo adolescente comunque ci sono tanti fattori. Attraverso questo momento fatale della vita, lo so. Il momento scolastico sicuramente, allora per quanto mi riguarda il momento scolastico, in quanto mio figlio è un ragazzo DSA, un ragazzo con problemi di dislessia, perciò... grandissimi problemi in cui gestire sempre la sua autostima, gestire i problemi. Sì, vabbè, ho capito perfettamente. In questo, quindi lei è resiliente di rimbalzo, mi fa molto piacere. Sam. Sì, buongiorno, grazie per questo collegamento. La mia storia probabilmente non sapevo questo termine resiliente. Nemmeno io. A qualche minuto fa. Probabilmente il mio istinto di sopravvivenza, perché ho avuto 6 anni quando ho perso i miei genitori durante la guerra in Vietnam, la guerra in Cambogia, cioè. I Khmer Rossi. Cioè. Esatto. Quindi è una cosa paragonabile alle peggiori stragi che ricorda la nostra storia dell'Occidente, quindi lei è un sopravvissuto a Pol Pot, ecco, una cosa del genere. Sì, probabilmente, prima avevo 6 anni e adesso ne ho 40, quindi dicevo che una volta perso i genitori io non mi sono abbattuto, ecco. Le racconto un episodio. Mentre schivavo le bombe, le mine, tutto quanto, una notte, mentre gli adulti parlavano di attraversare il confine con la Thailandia per raggiungere il posto più sicuro, io, anziché dormire con altri bambini, stavo attento finché questi adulti si alzavano e cercavano di raggiungere il confine. Ecco, io sono andato con loro. Perché lei aveva paura che gli adulti abbandonassero i bambini, come si faceva con Pollicino, per salvare loro. E quindi ha seguito gli adulti, quindi dice: a me non mi fregate, qualcosa del genere. Sì, esattamente. È questo che abbia il resiliente da colui che sta lì e aspetta. Beppe Neri. È molto, interessante questa molto storia. Corretto, perché è proprio lì il principio. È la favola di Pollicino. Partecipazione attiva, cioè l'intraprendenza. Per questo è un processo dinamico, perché io non subisco alcune condizioni, ma nonostante mi trovi in una condizione di disagio profondo, oggettivo come la guerra, elaboro delle strategie che mi consentono di venirne fuori. Beppe, però non puoi aver notato da psichiatra l'aspetto ulteriore. Ha ucciso il principio di autorità, di affetto, non si fidava dei genitori. Dice: voi me la mettete io non voglio star qui a far carne da cannone per gli Khmer rossi, io vi vengo dietro, voi salvate la vostra pelle, ci lascerete dietro come zavorre. E lui ha capito esattamente che in realtà questo condizionamento di eterno affetto filiale e genitoriale, c'era qualcosa su cui doveva fare i conti, e infatti ha resiliato, ha rimbalzato sul principio e si è salvato la pelle. Ma il setting era completamente alterato, lui aveva perso i genitori ed era un contesto, quello della guerra e della fuga per la sopravvivenza, in cui le relazioni parentali e le relazioni adulti-bambini sono completamente perturbate e a volte possono essere addirittura rovesciate. Sentiamo Orazio, buongiorno. Buongiorno, no, io non avevo mai sentito questa espressione, resiliente, mai, quindi non ne conosco il significato, ma volevo intervenire... Beh, lo stiamo spiegando questa mattina, siamo qua. Sì, infatti lo sto ascoltando. No, volevo intervenire solo per una cosa: c'è stato un ascoltatore che poc'anzi ha fatto riferimento alle dottrine Zen. Sì, era proprio come citazione. Ecco, la dico che non c'è bisogno di andare così lontano, perché in Sicilia abbiamo un proverbio che è stupendo e che dice... Cava di giunco che passa la china, ovvero giunco, non farti travolgere dalla china. Questo è un proverbio di che area del nostro paese? Della Sicilia. Ah, siciliano. Cava di giunco che passa la china. Traduco letteralmente: giunco, abbassati, piegati, perché sta passando la piena del fiume. E una volta passata tu ritornerai ad alzarti, mentre la quercia si spezzerebbe. E questo dimostra che esistono delle massime talmente cosmicamente esatte e applicabili alla nostra felicità, che attraverso vari contesti, varie religioni, vari punti di vista, varie visioni della vita riemergono. E questo mi fa molto piacere. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Ho avuto paura, se devo dire, in Antartica. In Antartica perché ci siamo trovati in un momento in cui la barca si era bloccata nel ghiaccio, il mare era diventato talmente denso come una granita densa e non andava più avanti. Parlare di resilienza, far vedere queste cose, sembra quasi che non esistano dei limiti, no, alle capacità umane, nel senso che ci sono dei limiti come il freddo che noi consideriamo dati. È chiaro, non lo possiamo controllare in modo onnipotente, uno non può andare a petto nudo per troppi minuti se ci sono meno 40 gradi, però qualcosa possiamo fare, piccole frazioni della vita quotidiana dipendono da noi, dal nostro atteggiamento. Questo è un esempio concreto di resilienza, che è il termine che oggi stiamo noi stessi apprendendo mentre ve lo esponiamo, che è la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, cioè organizzarsi volta per volta come una palla che rimbalza, la possibilità di risaltare come se fosse un fiume che per guardarlo bisogna saltare di sasso in sasso al sasso successivo. La vita è fatta di un salto da un sasso all'altro. La resilienza è anche la capacità di risalire appunto su una barca rovesciata, di passare un fiume con un gommone che si rovescia continuamente e si risale sopra. Perché parlo di resilienza? Perché questo è il mio contributo al Festival delle Resistenze Contemporanee, al quale partecipa anche Radio 24, che si tiene a Bolzano dal 25 aprile al 1 maggio. Ognuno dovrebbe dare degli esempi di resistenza. Io ho riflettuto un giorno, una notte, su quali sono gli esempi di resistenza, ho capito che a me conviene non resistere. Resistere è qualcosa che appartiene, secondo me, a una visione eroica, fortemente illuminata da un senso etico, e anzi da un senso che prescrive una metafisica e ti impone un comportamento. Devi resistere perché sei un essere umano. Se tu soccombi, non sei un essere umano, sei un indegno, appartieni alla categoria dei vermi. Secondo me non bisogna né resistere né soccombere, bisogna resiliare, bisogna saltellare, bisogna saperlo fare e muoversi con destrezza. Maestro di resilienza questa mattina è Giuseppe Neri, neuropsichiatra, amico mio, presidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Tutti mi chiedono come si fa a resiliare, il resiliente come fa, c'è una scuola di resilienza, questo è il bello, nessuno te l'insegna. No, io poi lungi da me la pretesa di essere maestro di alcunché, tanto meno di resilienza. Ma l'ho inventato questa mattina. No, comunque no, il concetto è che Per i colleghi che se ne sono occupati, che sono soprattutto nordamericani e anche europei, tra cui dicevo appunto il neurologo dell'ospedale di Tolone, Boris Silulnik, è un processo, è un evento dinamico, è la capacità di individuare, riscoprire dentro di sé e valorizzare delle risorse, delle capacità sia adattative sia di elaborazione di strategie di risposta che ci consentono di ritornare il più possibile nella situazione da cui siamo stati destrutturati. Ciò che ci ha colpito ci ha buttato tra virgolette in basso, ha modificato la nostra posizione, ci ha piegato nel corpo e nello spirito. Allora la resilienza consiste nel ritrovare dentro di noi e nelle risorse di cui disponiamo intorno a noi gli strumenti per ritornare il più vicini possibile alla condizione di partenza. Bisogna trovare il sasso nel guado del fiume a portata del nostro salto, e semplicemente saper valutare la propria potenza di saltare. Senti, un ascoltatore poco fa ha telefonato dando un carattere universale cosmico alla frase del giunto che si piega e non si spezza, la quercia si spezza, proverbio siciliano. Tu hai una appendice calabrese al di là dello stretto di questo proverbio, per dare ancora prova che è veramente universale. No, ma è interessante perché per alcuni, in un'accezione un pochino dispregiativa, era come una descrizione di un opportunismo qualunquista: qualsiasi cosa accada io mi faccio da parte. Non è così, perché i siciliani hanno un carattere estremamente forte e fiero, per cui non vuol dire questo, ma alcuni detrattori potevano interpretarlo nel senso: io sto per farmi i fatti miei, qualsiasi cosa succeda mi metto da parte. Dall'altra parte dello stretto, a Reggio, è molto diffusa, perché lungo lo stretto c'è la corrente degli uccelli migratori, una frase che invece ha un che di minaccia, di stai attento perché chi la fa l'aspetti, e suona più o meno così: cuglionia pibduni, cascupetta e carregata, che tradotto vuol dire falco piecchiaiolo, uccello migratore che vai svolazzando lì fra Capofaro e Scilla, non sgargiullartela troppo, perché io sono qui con la mia doppietta e sono pronto col colpo in canna, appena mi arrivi a portata di tiro ti tiro giù. Ecco, con la resilienza ha dei punti in comune, per il resiliente in realtà può fare elaborare anche questo pensiero. È un'estremizzazione, nel senso che se per arrivare a ripristinare la condizione che mi è stata perturbata in senso peggiorativo devo arrivare a tirar fuori la cartuccia con la mia, non è la soluzione più immediata e più semplice, ma non può essere scartata. Questo per dimostrare che il resiliente non è un pusillanime, non è uno che fugge, non è uno che si piega. Il resiliente è esattamente questo. Elisabetta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi chiedo una cosa, cioè mi ritengo forse una resiliente perché credo di aver capito il concetto, ma ho perso il lavoro, ho perso la storia più importante della mia vita e mi sono trovata a trovare la forza e il coraggio di andare avanti da sola, perché non ho supporti di alcun genere, a dover essere di supporto anche a persone che si trovavano nella mia stessa condizione. Mi rendo conto che le pile si stanno scaricando e quindi mi chiedo fino a che punto si può essere resilienti. Ma lei sta schiattando, non è che sta resiliando. Lei si pone anche il problema degli altri prima di risolvere il suo quadro. Lo psichiatra non sono io, è Beppe Neri. Questo mi ha dato anche la forza, essere di appoggio agli altri. Perché gli altri siano stati anche il suo appoggio reciproco, allora ha resiliato, sì. Purtroppo no. E allora chi gliel'ha fatto fare, scusi? Ha una vocazione da Madre Teresa di Calcutta, non lo so. No, direi di no. E allora perché lo fa? Anche se vorrei. E allora perché lo fa? Ma perché è un qualche, perché sono sola. E quindi essere vicino agli altri mi aiuta ad essere meno sola. Però questo, mi rendo conto che con gli anni, oggi ho 54 anni, mi ha molto... mi ha sfibrata. Ma gli altri sono vampiri se noi non abbiamo in realtà anche dei cospicui vantaggi nel frequentarli. Mi chiedo fino a che punto si può essere resistenti e fino a che punto si può riuscire a trovare la forza in se stessi per respirare. Allora si fermi, se no entriamo nell'ambito della pippa mentale e non ne usciamo più. Beppe Neri, la signora secondo me non è molto resiliente, è una succube non resistente, però vediamo, forse riesce. Ma penso che ci venga in aiuto la fisica dei materiali da cui è partito il concetto di resilienza, cioè la nostra ascoltatrice secondo me descrive in maniera molto appropriata e fedele alla realtà una condizione frequente e diffusa, ma la domanda che lei pone ha una risposta nella fisica dei materiali, cioè c'è un punto oltre il quale la capacità di rimbalzare, risalire, tornare indietro non c'è più. E il materiale si spezza. La situazione che la signora descrive è vicina a questo punto di rottura, per cui la risposta è: non esiste una resilienza illimitata, anzi, in fisica dei materiali esiste una curva che descrive precisamente fino a quale punto preciso è possibile il rimbalzo e il ritorno allo status quo ante, e il punto oltre il quale invece il materiale si spezza e quindi in questo caso le possibilità di recupero vengono meno. c'è un termine maschile molto gut, mi sono rotto, esattamente, è il punto. Allora, Elisabetta, finché lei si ritenga e si sente ancora elastica, sarà resiliente. Il momento la sua elasticità sarà compromessa, lei non sarà più resiliente. Andrea. Sì, buongiorno. Salve. Eccomi. Niente, io applico la mia resilienza per una mano alle persone. Cosa vuol dire? Purtroppo il mercato del lavoro è molto flessibile. Dato che so comunque di essere una persona valida, io di lavoro bene o male ne trovo sempre, anche se uno finisce e l'altro poi inizia. Però utilizzo tutte le mie esperienze, ho lavorato in banca, ho lavorato per compagnie di energia elettrica, gas e così via, per cercare di dare una mano comunque alle persone che mi circondano a risolvere i loro problemi, piuttosto che... come dire, migliorare la loro posizione. Quindi Andrea, anche da lei emerge l'aspetto altruistico, non vorrei essere frainteso, il resiliente sì. Non è un egoista, assolutamente. Il saper rimbalzare significa nel trovare supporti comunque laddove sembra impossibile che ci siano. Questo dico il mio punto di vista, poi Beppe Neri lo circoscriverà in una disciplina un pochino più esatta. Quindi in sé il resiliente non è uno spietato, è molto più spietato il succube quando tracolla si trascina dietro probabilmente un'infinità di persone. Il resistente è molto più spiegato, perché chi resiste molte volte si trascina dietro tante vittime che non avrebbero nessuna voglia di resistere. Il resiliente è anche altruista, perché in fondo per compiere il rimbalzo della resilienza occorre comunque avere contatti con persone, e questo è un contatto che è corroborante per te, aiuta te, ma probabilmente da qualcosa anche l'altro. Beppe, no, nel senso, io sto inventando, mi sembra che il nostro ascoltatore metta a fuoco un aspetto diverso, che è quello che gli anglosassoni chiamano coping e che noi potremmo tradurre in qualche modo capacità di adattamento e di dar risposte. Lui sta descrivendo una grande capacità di adattamento e di dar risposte a situazioni e contesti diversi, che è cosa diversa, perché il punto da cui dobbiamo non allontanarci è che la resilienza parte da un evento traumatico precedente, è un rimbalzare, può rimbalzare soltanto ciò che ha subito un colpo. Ecco, quindi è l'apprendere che in realtà i colpi non sono delle fatali maniere per buttarci a terra, ma sono delle spinte propulsive verso altri posti, altri luoghi, altre esperienze. Questo non vuole essere naturalmente una sorta di scappatoio giustificativo, perché la resilienza applicata alla particolare congiuntura che stiamo tutti vivendo, potrei dire sì, vedi che paraculi, resiste, resiliate, quindi attaccate. Non è esattamente così, è trovare in sé le risorse che altri non ci daranno mai. Melog, la realtà condivisa. A chi non è capitato di dire basta, non ce la faccio più, come dura la vita, ho sbagliato tutto, e frasi simili che sono legati a momenti non rosei della propria esistenza? Nell'ultimo decennio si è avuta una crescita di importanza nella considerazione da parte degli studiosi della salute del concetto di resilienza, grazie all'affermarsi della psicologia positiva, che sposta il focus dal riparare ciò che non funziona a coltivare le qualità positive, e quindi non solo patologia, ma punti di forza e fattori positivi. Beppe Neri, perché quando sento dire qualità positive mi viene una sorta di raggrinzamento gonadico irreversibile? Non c'ha nulla a che fare, secondo me, col mio concetto di resistenza, l'aspetto positivo, che è qualcosa molto, molto moderno, new age, positivo, vogliamoci bene, esprimi positività, ma... quante stronze oggi ti dicono tu esprimi positività? Allora, due risposte. La prima, di tipo anatomo funzionale: quello che ti accade è perché la tunica albuginea con l'età ci si raggrinzisce un po', e quindi le capacità elastiche di contenimento delle gonadi vengono un pochino compromesse. Nell'aspetto specifico, poi, quello che abbiamo ascoltato fa parte di un modo di approcciare le cose che io chiamo produzione verbale abbondante a contenuto semantico scarso, cioè sono parole più o meno in libertà affastellate sulla base di qualche slogan e qua. Alcuni elementi sono sicuramente fondati e con rispondenze nella letteratura internazionale. Il problema è la divulgazione un pochino spinta e la banalizzazione di alcuni concetti che ne impoveriscono fortemente il contenuto. Sentiamo qualche ascoltatore. Poi prima vorrei farti una domanda. Tu prima hai parlato di materiali a cui si applica la resilienza. Mi piace, perché se io penso che tutta l'arte alchemica era una rappresentazione metaforica di operazioni mentali, psichiche e spirituali, se per altri può avere senso questo termine. Si parlava di zolfo, si parlava di oro, si parlava di piombo, si parlava di antimonio. Ecco, in realtà anche la resilienza ha la sua metallurgia. Assolutamente, ed è un'applicazione molto concreta e specifica, cioè nell'ambito della neurochirurgia spinale. C'è una joint venture italo-russa che ha evidenziato un materiale che è una lega di nickel titanio, che ha questa caratteristica che si chiama memoria di forma, cioè in base a particolari caratteristiche di condizioni di temperatura può essere modellato in una certa posizione, in questo caso per garantire il posizionamento per esempio nella colonna cervicale o nella colonna lombare, e poi al mutare delle condizioni di temperatura ritorna, se vuoi rimbalza, nella forma originaria, è resiliente, e questo viene applicato proprio per stabilizzare, distanziare, per intervenire su problemi della colonna vertebrale. Quindi questa è un'applicazione molto precisa e molto concreta, il cui principio fondante è proprio la memoria di forma. Quindi noi dovremmo scoprire l'algoritmo della resilienza, la perfetta formula matematica per cui oggi applicare al mondo moderno contemporaneo, in cui non è giusto che esistano più dei principi etici così forti per cui resistere, quindi schiantare, sia un valore, e riuscire a sopravvivere a una catastrofe non sarà considerato come l'aver ceduto a qualcuno poi i principi, la forma perfetta del rimbalzo resiliente. Domenico. Sì. Buongiorno. Spenga la radio però, Domenico. Sì, spengo la radio. Ascolti, io ho 63 anni, ex insegnante, e un mio collega ha fatto uno slogan, perché nella scuola sa che ci sono i vari bulli. Poi fra l'altro ho insegnato in un istituto professionale alberghiero, quindi di bulli diciamo che ce n'erano. La formula è stata smontare il bullo. E con quali utensili lo smontavate? Lo smontavamo prendendolo in giro, ridicolizzandolo davanti, che so, anche all'intera classe, ad esempio. Di solito il bullo ha il consenso, ma adesso non voglio entrare. Il bullo ha il consenso degli altri, se uno prende in giro il bullo ti appiccicano al muro e ti picchiano. Esatto, quindi bisognava togliere il consenso avendo anche dalla propria parte, ad esempio, l'insegnante, il quale si rendeva partecipe problemi dei ragazzi che venivano presi in giro, così via. E il bullo si doveva sentire isolato, proprio smontarlo. Sì, ma con la resilienza cosa ci azzecca questo, per capire? Ci azzecca nel senso che, ad esempio, come diceva lei prima, ritornare su un'imbarcazione, ecco, smontarlo nel senso di ritrovare se stessi per mettere in ridicolo uno che ci sta attaccando. Non sto ferendo l'idea. Sì, ha un senso, perché in effetti di fronte a il colpo è quello che ti dà il bullo, e lei dice, beh, io il bullo, come dice, mi suggerisce il professor Intonti, lo smonto come fosse un bullone. Ma sarebbe necessaria una chiave inglese di notevole diametro per fare questa cosa, però entreremo in un altro ambito. Beppe Neri. No, vabbè, è un'applicazione estensiva a una fattispecie particolare, però forse qualche legame lasso può esistere. Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dello spazio. Ma volevo così fare una considerazione mentre stavo andando in macchina. Consideravo questo, anche se il concetto di resistenza trae un po' origine in eventi drammatici come la guerra e via dicendo, quello che avete detto un po' prima, ma non potrebbe essere calato nel, lo avete un po' accennato voi, nel momento storico-economico che c'è ora. Io faccio l'avvocato e vedo che ogni giorno ci sono varie sfaccettature di reazione di fronte a questo diciamo momento economico. C'è chi sta inerme a guardare quello che succede, penso ai dipendenti che si vedono trattenere in busta paga, non so, per dire le tunde fiscali. Vedo gli imprenditori che resistono e mi dicono, io resisto oppure cosa faccio? Evado le tasse oppure resisto con fare un crack e alla fine voglio dire soccorrere. Sì, ma noi abbiamo trovato una terza via, lei ancora fermo alla resistenza. La resilienza è proprio questa, la resilienza, dico, è il tamponare, come posso dire, l'emergenza attuale, tamponarla a vari gradi, voglio dire, a seconda delle proprie possibilità, per poi, passata questa emergenza, tornare ad essere quella forma che eravamo prima. Cioè prima. Esattamente, ma come diceva prima lo psichiatra Beppe Neri, esistono queste applicazioni, quel titanio con memoria di forma, è una lega che viene infilata dentro laddove deve mantenere una forma, poi torna esattamente alla forma di prima. Anna, grande rimbalzatrice. Anna. Sì? Eccola. Allora, buongiorno. Volevo solo dire, io la desilienza non lo sapevo, però l'ho applicata al mio matrimonio. E dove rimbalzava nel suo matrimonio? Rimbalzava tanto, perché mio marito ha un carattere molto forte, bravissima, ma un carattere molto forte, e io invece ero molto insicura. E piano piano. Ma dia degli esempi pratici, perché così esempi ci addormentiamo. Non so, lui voleva farmi diventare in un certo modo. Come? Cambiarmi. In che senso? Non so, i miei difetti, farli diventare dei pregi. Ecco. Cioè, gli chiedeva ogni tanto di tagliarsi i baffi, cose del genere. No. Però non capisco se non mi dà... Comunque mi suggerisce sempre il professor Intonti che le donne in realtà hanno un loro principio naturale, è naturalmente resiliente la femmina, è la sua capacità di adattarsi nella sua minor tenuta di forma fisica, di forza fisica, all'impellenza e alla prepotenza del maschio. Quindi voi femmine resilienti, insegnateci come si fa, che noi impariamo da questa mattina. Grazie Beppe Neri, grazie Intonti, grazie Chiappini. A domani.